Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Due appartamenti a Padova, la casa di famiglia a Cittadella, terreni agricoli e un consistente deposito bancario. Fatti due conti, un patrimonio da 3 milioni di euro. Tanto è riuscita a farsi intestare una 52enne badante moldava da un docente universitario padovano e dalla moglie, coppia facoltosa, scomparsa un anno fa. Nel mirino della procura due testamenti olografi, sospetti, fatti firmare due anziani mentre erano ricoverati in casa di riposo. Lui con l'Alzheimer, lei con una grave forma di demenza senile. Testamenti che a favore dell'erede unica moldava cancellavano le precedenti disposizioni della coppia, senza eredi diretti, di lasciti a istituti e all'opera della provvidenza di Sant'Antonio. E spesso le persone anziane sole si attaccano, si avvicinano molto ai soggetti che le curano, le seguono nel tempo. È anche vero che bisogna capire se le persone anziane sole sia meglio che lasciano i loro averi al prete che gli fa la posta quando li vede che sono vicini a tirar le cuoia, o la badante che in fondo gli dà momenti di gioia negli ultimi momenti, negli ultimi attimi, nell'ultimo periodo della loro esistenza. È un annoso problema, vorrei trattarlo in maniera laica, ma con un contributo concreto da parte del pubblico che ormai è diventato l'elemento chiave di questa trasmissione. Mi piace porre un problema e mi piace avere un campione che immediatamente mi dà una reazione, che è un campione significativo, è un campione di persone che ormai sono anni che seguono e partecipano in maniera attiva, in maniera collaborativa, anche se a volte in chiaro contrasto, ma questo fa parte del gioco, fa parte della dialettica. Il tema oggi è quello delle badanti. La badante è una figura che assume anche tratti simbolici, la vediamo nei due estremi. Ciò premesso che abbiamo 3 milioni di anziani comunque in condizioni di dover essere assistiti, non autosufficienti, la stima dice che sono 800.000 badanti, quelle stimate saranno quelle regolari, poi ce n'è un numero abbastanza consistente, secondo me sono quelle che la gente si tiene al nero, che paga sotto banco, che tiene sotto forme varie e variegate. Comunque sia, c'è un problema grosso. Noi siamo un paese anziano, non abbiamo un sistema di protezione e di attenzione sufficientemente affidabile per tutti gli anziani, abbiamo visto come finiscono poi negli istituti, abbiamo un ammortizzatore sociale, vogliamo chiamarlo così, che sono, diciamo, dalla caduta del muro del blocco dell'est, molte donne dell'est che vengono verso l'Italia e si occupano degli anziani, fanno quello che non possono, non vogliono, non hanno più strumenti di fare i figli, i parenti, le figlie zitelle, le sorelle che sono destinate a questo tipo di uso, come era nella famiglia patriarcale. Dell'anziano si occupava sempre una figlia che era destinata a rimanere zitella, se da occupare dei genitori. Oggi se ne occupano le badanti straniere, rumene, moldave, avete sentito, vengono dall'est, soprattutto sono rumene. Dicevo, le vediamo in due punti antitetici, immaginate queste due figure per dare il vostro contributo. L'anziano muore al funerale dell'anziano in un angolo che piange in lacrime, c'è anche la badante. Piange perché è realmente affezionata a quella persona, l'ha condotta fino alla morte, l'ha seguita negli ultimi anni della vita, si è occupata di tutte le sue funzioni corporali, anche quelle diciamo più difficili, più imbarazzanti. O piange anche perché è terminato il suo lavoro, dovrà ritrovarsi un altro lavoro. D'altra parte, titoli sui giornali, badanti prosciugano il conto del pensionato, alla badante tutta l'eredità del nonnino, almeno 750.000 euro e terreni in tutta la bassa. La badante che ha fatto il colpaccio, la badante che ha fatto un barattolo, non è detto che sia su una chiave maliziosa, su una chiave mendacio o furtiva o d'inganno. La badante fa ritrovare a quella persona anziana il calore, l'affetto, il desiderio, insomma gli dà l'impressione che ancora c'è un essere umano al quale può lui restare abbracciato, e lui in cambio per gratitudine alla persona che non l'ha presa a calci in faccia, che probabilmente in cambio di un benessere mai sarebbe sognata, gli lascia tutto quello che ha a disposizione, lasciando con un palmo di naso i figli, le nuore, le mogli, le ex mogli, i parenti vari. Qual è il vostro punto di vista? 800 24 00 24. Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Melog, cronache meridiane. A stare al riparo. E poi se si trova un bel fidanzato, che ben venga, no. Faccio la badante, mi alzo la mattina, faccio il mio signore a posto, lo metto a letto, poi lo metto un carusino, gli do di mangiare, dopo faccio il mio lavoro in casa. E poi la domenica? La domenica, come sempre, siamo al parco, siamo liberi, siamo al parco, dopo, quando è freddo, andiamo un po' al caldo. Ma dove? Torniamo bene. Facciamo un po' di... 800 24 00 24, badanti al parco, qual è il vostro punto di vista, qual è la vostra esperienza? È un supporto indispensabile, necessario, che va a coprire dei vuoti nel nostro assetto sociale, nel cascame sfilacciato che ancora esiste di questo astratto concetto di famiglia, in cui quando sei anziano e non sei più produttivo cominciano per te i guai, perché nessuno ti vuole più, sei una patata bollente. O c'è veramente una callida, furbesca predisposizione da parte di queste donne, che vengono con strumenti raffinatissimi di turlupinamento del povero anziano, lo circuiscono con seducenti arti di pregnante vicinanza fisica e lo riducono ai minimi termini della sua volontà e ne fanno ciò che vogliono, togliendo ai poveri figli il giusto frutto della loro eredità. Walter, come la pensa? Allora, penso che mio papà, buongiorno. Penso che mio papà è morto felice per avere una badante ucraina, la quale Ucraina lo acquisiva. Lui era cosciente che lei faceva dei regali, che era contento, e diceva: ma io mi sembra un angelo, era grande e grossa come sono alle volte delle russe. Ma lui è morto felice perché è accudito da questa persona, e noi fratelli abbiamo lasciato fare che lui facesse regali, che facesse tante cose, e abbiamo capito che lui è morto. Ma secondo voi Walter c'era anche, diciamo, qualcosa che potesse in qualche maniera assomigliare a una storia d'amore fra suo padre e la badante, o era solo un rapporto di gratitudine verso la persona che ancora si occupava fisicamente di te, ti accudiva, ti cambiava, ti lavava, ti vestiva, ti faceva quello che non faceva più nessuno? Era quello che lei sta dicendo, nel senso che accudito amorevolmente, era accudito, e i suoi desideri, non desideri, come se pecorecci, no, i suoi desideri. Vabbè, pecorecci, scusi, ma io, fra una persona che ti cambia il pannolone e una persona che poi si occupa anche del tuo pisello, non vedo che c'è poi tanta differenza. Non colpevolizzerei se avesse avuto anche suo padre dei desideri carnali, questa donna a questo fosse anche, diciamo, si fosse resa utile. Ci vede qualcosa di strano, di colpevole? A un certo punto uno deve chiudersi, no, tutte. Ma non assolutamente. Fatti io loro, se, fatti loro, se, secondo ho me. Ho 73 anni e io ho queste ancora queste reminiscenze, diciamo, no? Beh, ci fosse qualcuno che gliele risveglia, perché gli fa qualcosa, certo, di male. Questo non lo posso sapere. So di sicuro che lui, per lui era un angelo. Quando mancava chiedeva di Irina dove è andata. Quindi voi non vi facevate un problema se oltre lo stipendio vostro padre facesse qualche regalo a questa signora? Un problema perché diciamo i regali che poi in fondo faceva papà erano cosa minima, tant'è vero che quando poi è mancato noi abbiamo assolutamente noi fatto dei regali alla badante. Va bene Walter, questa è una posizione. Alessandro, buongiorno Alessandro. Buongiorno, ma secondo me si cerca sempre un capro espiatorio, adesso si cercano le badanti quale figura oscura. Io penso che molte non volte... Non io, io ho posto il problema, non è che... Certo, ho un verdetto. No, perché in questo momento la concorrenza è molto spietata, perché ci sono le banche che con i prestiti vitalizi si vogliono anche loro accaparrare le fette di queste persone sole, anche gli stessi ospizi, le strutture protette, che molte volte questi anziani non possono pagare le rette. dirette, fanno loro procure o testamenti in favore di queste strutture, la stessa Chiesa, quindi ci sono anche le strutture religiose che vengono, diciamo, in un certo senso a beneficiare di questi lasciti, solamente che quando si tratta di una badante, essendo molte volte magari una figura un po' atipica, noi gridiamo allo scandalo, mentre se poi lasciano la casa all'istituto è una cosa normale. Lei quindi, Alessandro, mi faccia capire meglio, mi sembra che lei sia una persona documentata, quindi mi è utile. Lei dice c'è sempre stato un grande affair dietro la solitudine dell'anziano e i suoi bisogni, un affair che era diviso in parti uguali fra laici e religiosi, diciamo, istituti, enti e anche istituti religiosi, figuriamoci, di lasciti di anziani soli si sono riempite le casse, figuriamo, no? Esatto, quindi figuriamoci se ci mettiamo la concorrenza in questo mercato, adesso si sono affacciate anche le banche, appunto, come dicevamo, con i prestiti vitalizi, quindi in un certo senso l'affetto si va sempre più a sottigliare, solamente che magari la badante è più facile da attaccare perché si può difendere di meno, non sa come fare, si trova magari appunto indagata o a trovarsi in difficoltà, quindi sicuramente magari è più facile per lei lasciare l'osso. E poi diciamo, in un paese bigotto come il nostro c'è sempre dietro questa cosa che si dice non si dice, che in realtà c'è una sorta di seduzione, ci sia una specie di mercimonio sessuale, anche quando molte volte è semplicemente il fatto che una persona ti dà una carezza o ti sta vicino o si occupa del tuo corpo, anche come un'infermiera. Ecco, dietro questo dice, ma le vedono alla stregua molte volte quasi di persone che in cambio di sesso portano via gli averi al povero vecchietto. Sì, che poi non è neanche così, perché molte volte queste persone quando escono dagli istituti malapena si reggono in piedi, quindi diciamo l'anziano con la badante normalmente non è autosufficiente, quindi non è in grado neanche più di pensare al sesso come una forma di divertimento, come una forma, diciamo così, di letizia. Cercano più che altro la compagnia, cercano la possibilità di stare nel loro ambiente, nella loro casa, diciamo legate ai loro affetti, quindi la badante sicuramente è una figura che oggi secondo me diventa fondamentale per garantire all'anziano un certo benessere. Poi certo ci possono essere dei casi limiti come in tutte le cose, però secondo me demonizzarla a tal punto che poi diventa un caso nazionale, come quando succede un'unica cosa. Devo dire, guardi, in un paese dove arrestano commercialisti perché si tengono i soldi con cui dovrebbero pagare le nostre tasse, non è che mi scandalizza molto poi il fatto che ci siano anche delle badanti che se ne approfittano. Certo, quindi di conseguenza bisogna sempre, secondo me, cercare di mantenere un giusto equilibrio in tutte queste cose, quindi valutare le cose per quello che sono e dopodiché uno fa un'analisi ben approfondita. Bene, Alessandro. Gianetto Regassani, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Gianetto Regassani, presidente LAMI, Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, ha scritto vari libri, Vi dichiaro divorziati, è l'ultimo, ma ha scritto I perplessi sposi. LAMI si è occupata del problema, diciamo, dei matrimoni tra badanti e anziani. Velocemente, così poi diamo la linea e poi riprendiamo in maniera più approfondita con Gassani. Ve ne siete occupati? Sì, da 10 anni, ogni anno 3.000 matrimoni si celebrano tra un anziano e una giovane badante o colto, quindi un dato indiscutibile. Parliamo di 2 milioni di badanti e colf che sono entrate nel nostro paese, quindi di numeri enormi, ed è chiaro che per la legge dei grandi numeri ci siano anche dei fatti criminosi, su questo non c'è dubbio. Ecco, Tuttavia, di questi matrimoni in media che avete voi registrato, come vanno a finire la storia matrimoniale? Nella metà dei casi questi matrimoni finiscono in tribunale, nel senso che i figli si fanno vivi perché il malloppo sta scappando, l'eredità, e quindi si ricordano probabilmente del loro anziano genitore che avevano comunque parcheggiato alla badante, solo quando ormai il genitore è convolato a giuste nozze o ingiuste, poi dipenderà dal giudice, ma altrimenti nell'altro 50% dei casi tutto rimane così com'è fino alla fine dei giorni dell'anziano. Ovviamente in questo grande calderone, come si sta giustamente dicendo, c'è di tutto, c'è la badante che ruba, la badante che sfrutta, ma c'è anche la badante che anche col matrimonio magari di interesse fa il suo dovere fino alla fine. Credo il welfare più importante del nostro paese è il badante, non dimentichiamolo. Noi non abbiamo una politica per gli anziani e devo dire che la famiglia italiana non è quella di una volta. Molte volte i genitori sono letteralmente abbandonati dai figli e se si vogliono rifare una vita, se si vogliono divertire, ben sia per loro. Tu ricorderai nei tuoi ricordi di terra natia e familiari, una volta nelle famiglie molto numerose c'era una figlia destinata a rimanere zitella, era quella che si doveva occupare dei genitori. Oggi chiaramente questo è fuori dal tempo. Sì, indubbiamente prima i genitori morivano con i figli, anche quando erano anziani, vivevano tutti insieme, la grande famiglia. Oggi non è più così. Oggi il genitore viene messo da parte, o in un ospizio o con la badante. Questo è il problema. Quindi mi preoccupo più di questo che di qualche furto. Allora fermiamoci un attimo con Gianettore Gassani, riprendiamo tra un secondo. 800 24 00 24, tutto quello che voi sapete di esperienza personale o esperienza riferita ma con fonte certa sul rapporto tra anziani e badanti. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Non è certo una novità, è una moda a una certa età. Il mestiere della badante, un investimento gratificante. Stipendio, vitto, alloggio, e se ci casca pure l'allocco, come fosse un terno al lotto, la vita gli sorriderà. Vada ben la badante, è un pericolo costante. Se poi è bella e prosperosa, il nonno subito la sposa. Vada ben la badante, finiremo tutti in mutande. Non è questione di passione, ci giocheremo tutta la pensione. Non rispecchia chiaramente la linea editoriale della trasmissione questa canzonaccia che... divertente, di Michele Turchetto, Bada ben la badante. Sono quelle canzoni che con gli altoparlanti vengono diffuse come colonna sonora del croccante, delle noccioline, nelle fiere di paese. Oltre a questa c'è tira lo spago, tira la sega, cose del genere. Comunque va bene, è un punto di vista generalizzato quello che la badante ti lasci in mutande, ma ti lasci in mutande in quanto ti espropria di quello che pensi sia il tuo legittimo asse ereditario, perché tuo padre, tuo nonno, tuo zio, la persona che tu le affidi, in realtà preferisce essere concretamente grato a colei che si occupa anche fisicamente della sua persona. Sonia, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. L'ascolto. Allora, mio padre è stato, io devo essere sincera, è stato adescato da una badante sudamericana con la complicità di... amici familiari. Ma dove l'ha conosciuta questa badante? Da dove veniva? Veniva appunto dal Sud America. Da dove? Qual è stato? Dal Brasile. Beh, Brasile, sì. Cioè una brasiliana sarà messo in casa. L'ha conosciuta a casa di altre persone della stessa nazionalità. Che non però non faceva la badante quando l'ha conosciuta. No, faceva, sì, sì, faceva. E... ma era giovane questa signora? Aveva 10 anni meno di mio padre, quindi non era giovanissima, però diciamo proprio... Quindi era di mio padre. Avrà avuto una 70 anni? No, quando si sono conosciuti mio padre ne aveva 53 e lei ne aveva 10 di meno. Ma scusi, ma 53 anni uno ha bisogno della badante, che problema aveva suo padre? Mio padre aveva il problema che quando è mancata mia madre, diciamo lui era molto legato e un po' psicologicamente appunto... serviva una donna, ma a 50 anni era un ragazzino, scusi. Si è messo con una donna, cioè perché lei la chiama badante? Si è fidanzato con una donna... Comunque lei si è fatta registrare all'INPS e diciamo in tutte le cose burocratiche. Ma è palese che fosse l'amante, la fidanzata di suo padre, una donna di 43 anni... che si prende in casa un uomo di 53 anni, è un po' difficile che viene lì per dargli la pappina col cucchiaio. Fatto sta che mio padre, cioè fatto sta che questa signora ha fatto terra bruciata intorno a mio padre, e poi quando lui si è ammalato 2 anni fa io ho avuto non solo difficoltà a curare mio padre, anzi non ho potuto curarlo se non all'ospedale, perché a casa non potevo avvicinarmi a casa di mio padre. Ma si erano sposati? Andare. Nel frattempo si erano sposati? Assolutamente no. E beh, con che diritto? Scusi, a tutti gli effetti era una dipendente, sarei iscritta all'INPS, quindi lei come figlia aveva il legittimo diritto di occuparsi di suo padre. A meno che suo padre fosse, se suo padre era in grado di intendere e volere, è lecito che dica non voglio i figli per casa. E questo se ne faccia. No, il bello è che io non potevo andare a casa, ma dovevo andare all'ospedale, perché comunque questa persona non era incapace neanche di capire l'italiano, per cui alla fine poi, alla fine della fiera, non andò nemmeno negli ultimi giorni della vita di mio padre in ospedale, per cui non andò nemmeno a salutarlo, se così si vuol dire, e però riuscì a farsi lasciare quello che... Sonia, rispetto al tema della trasmissione, questa era una badante soltanto formalmente, che suo padre doveva in qualche maniera probabilmente giustificare la presenza di una persona in casa, o avrà voluto regolarizzare quello che lui le dava, ma a tutti gli effetti è chiaro che era una fidanzata, una donna, una compagna, una moglie, un amante, la chiami come vuole, una concubina, ma poco a che fare col mestiere della badante. A 53 anni, a meno che uno non abbia delle disabilità, è un po' difficile avere una badante. Gianetto Regassani, che ne dici di questo caso? È atipico rispetto il quadro che stiamo esponendo? Beh, un po' sì, sicuramente un po' sì, insomma, la badante non... Sei d'accordo? Questa è una fidanzata, non è una badante, no? Sì, è la fidanzata, comunque voglio dire, molte volte capita che le badanti cerchino di isolare l'anziano, anche da alcuni figli che invece in effetti vorrebbero ancora occuparsene. È successo un paio di volte anche al mio studio occuparsi di queste cose, e devo dire che addirittura una volta trovammo in un appartamento di un anziano l'intera famiglia di origine della badante stessa. Si erano accasati, insomma. Sì. Erano 8 romeni in casa che bivaccavano e facevano quello che volevano. Come posso dire invece che la comunità romena, come quella polacca e gli altri, è una comunità formidabile sul piano della solidarietà, perché ho anche un'esperienza personale in casa mia con mia nonna, che sarà accudita fino alla fine dei suoi giorni in maniera amorevole. Ancora oggi abbiamo rapporti e contatti con queste persone. Sì, però Gianetto, posso farti una domanda? Dove erano i figli in quel caso? Quando a casa di un padre anziano si piazzano 8 persone, ti sembra normale che i figli non lo sappiano? No, non mi sembra normale. Infatti l'ho detto nell'intervento di prima. Io credo che la cosa più importante, l'allarme sociale di questa situazione, è il disimpegno della famiglia italiana verso gli anziani. Non voglio generalizzare, ma certamente i costumi sono cambiati. Conosco troppe storie da avvocato di genitori cacciati via oppure allontanati dal contesto familiare, anche nei giorni di Natale, anche nei giorni di festa, perché magari non andavano d'accordo con la nuora, col genero, perché magari davano fastidio o sporcavano. Allora, a questo punto devo dire che è un rischio da correre anche molto volentieri, quello di che qualche anziano venga derubato, piuttosto che vederli morire negli ospizi, perché l'alternativa sarebbe quella. In effetti le colpe e le badanti sono una tradizione piuttosto giovane nel nostro paese. Fino a negli anni 80 fiorivano ospizi ovunque. Il famoso film di Alberto Sordi dice alla fine: trattatela come una regina. Trattatela come una regina, ecco. La povera mamma all'ospizio. Era l'inizio di un'Italia decadente, questo è poco ma sicuro. Maria Teresa, buongiorno. Maria Teresa. Buongiorno. Sì, io vorrei portare una testimonianza positiva riguardo alle badanti, perché mia mamma, che ormai ha 101 anni, ha avuto la badante per una decina d'anni, cioè più badanti, 6 badanti, che si sono avvicendate, diciamo licenziandosi per motivi personali, familiari, ma non certo per i cattivi rapporti che avevamo. Io sono sempre stata dietro a mia mamma e alla badante, e si è creato un rapporto umano, un rapporto fra virgolette intimo, nel senso che le storie di queste persone, le loro situazioni sono diventate parte della nostra vita, e loro sono state, ma diciamo gratuitamente, non per riconoscenza, sempre positive a sostegno delle necessità fisiche, mentali e di compagnia che dovevano assolvere. Io penso, Maria Teresa, sarà d'accordo con me, leggo nei resoconti che quello della badante è uno dei mestieri più usuranti che ci sia. Sì. Occuparsi di una persona anziana non è una passeggiata. Sì. Sicuramente. Tant'è vero che mi raccontavano queste quasi tutte rumene che al loro paese, quando rientrano le badante, molte vengono ricoverate per esaurimento nervoso, per depressione. Burnout, queste cose qua che a un certo punto uno, sì, è chiaro, occuparsi in maniera insistente, sì, quotidiana, sì, di una persona con bisogni speciali, sì, logora moltissimo. Tutto il giorno, perché poi queste persone hanno il contratto H24, quel contratto lì che immagino dormono anche lì. Sì, sì, dormono, loro dormivano, quindi anche con tutte le complicazioni mentali che possono avere i vecchi, che a volte hanno l'arteriosclerosi, quindi diventano un po' esigenti, che rimproverano un po' queste ragazze, per cui io le sostenevo più che non criticarle. E quindi una sola si appropriava del caffè, dello zucchero, del parmigiano, di alcuni alimenti, di alcuni generi alimentari, e poi mi aveva fatto dimagrire mia mamma notevolmente, perché preparava da mangiare solo quello che voleva lei, al che ho dovuto licenziarla. Vabbè, però ci sta, diciamo, sembrano cose un po' che appartengono a epoche passate. Mia nonna faceva il processo alle donne perché gli mancava la tazzina di caffè, però ci sta anche questo. Giuseppe, sentiamo Giuseppe. Dottore, Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Prima di tutto, niente ai preti, proprio niente. Vabbè. Secondo, se sono fortunato, dovrebbe essere anche niente alle banche. Anche che non è che ne hanno proprio tutto questo bisogno i preti, mi sembra che stanno No, ma sa, loro si accappano. Sui beni immobili mi sembra che sono ben forniti. Si attaccano dappertutto. Lo so. Allora, attenzione. Ormai è letteratura, fa parte della legge. Io e mia moglie, che abbiamo circa 70 anni, abbiamo un figlio, andremo dal notaio, stabiliremo questo. Noi andremo a fare un contratto preciso con una coppia, possibilmente di extracomunitari, nigeriani, roba del genere, in maniera tale che ci accompagnino fino a quel giorno. Dal notaio faremo anche un contratto per poter avere una fine dignitosa. Tutto qua. Cioè lei fa una specie di trust. Sentiamo l'avvocato Gassani. La soluzione di questo signore, ti sembra una soluzione applicabile, equa, intelligente? Assolutamente sì. Assolutamente sì, oggi molte volte si adottano questi sistemi, il trust o altre possibilità per avere una vita magari più tranquilla, ma anche per consentire agli eredi eventualmente un'organizzazione dei beni. Ci sono quindi margini, diciamo, di sicurezza, che poi, diciamo, la cosa vada in porto come uno pensa, diciamo, sì. Penso proprio di sì, insomma, il trust ormai ha preso piede anche in Italia, ci sono degli studi legali che se ne occupano anche in maniera molto, molto importante, quindi sì, questo potrebbe essere. Trovare un trustee fidato, una persona che poi sarà la persona che certamente non bisogna andare dal primo avvocato che si conosce, o perché è simpatico, perché abbia il palazzo, bisogna andare sempre da specialisti, ma questo nel trust come in qualsiasi altra materia. Praticamente la persona poi ti avrà il tuo destino nelle sue mani, lui che garantirà che poi l'equilibrio di tutta la dinastia, di tutti dei nipoti, dei pronipoti, quelli che verranno. È chiaro, sbagliare un contratto di questo tipo o non articolarlo bene potrebbe essere molto pericoloso. Fermiamoci un istante, Gianetto Regassani, fra un secondo. 800 24 00 24. Eolo, internet ultra veloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. vi presenta Melog, cronache meridiane. Mi sto confrontando con il pubblico di Radio 24 per capire qual è il punto di sensibilità rispetto al problema delle badanti. Abbiamo tantissimi anziani, non abbiamo più gli strumenti familiari tradizionali per una normale manutenzione dell'anziano solo, sono subentrate come forza lavoro e supporto al welfare mancante, quel pezzo di welfare mancante, le badanti, e di questo parliamo. Augusto, buongiorno. Buongiorno. Io purtroppo sono vedovo da pochi mesi e, scusi un attimo, posso spiegare qual è il problema psicologico per noi maschietti quando ci sentiamo da soli? Io ho 4 figli, sono qui, domenica ero qui fino alle 9. Quanti anni ha Augusto? 6-8. 68? E non ho bisogno, non voglio farmi le flebo per avere una prestazione sessuale. Da quanto è che vedovo lei? 6 mesi. Quindi cosa pensa di fare? Non ho capito, partecipo al suo dolore. Ho il bisogno proprio interiore di avere qualcuno con cui avere compagnia nei momenti di solitudine. Qualcuno che sostituisca la sua moglie, che non c'è più. Non c'è più, no, mia moglie è morta. Lo so, l'abbiamo capito, ne vuole un'altra, No, sarà perché ero 42 anni che ero insieme a lei. Quando alla sera lei provi a sentirsi da solo in casa, a me capita spesso, letto. Non è che poi sto tanto male, comunque vabbè, così può capitare, sì. Quindi no, lei... sto parlando della necessità di avere qualcosa di caldo, nel letto. Qualcuno, quindi la badante, può supplire anche senza prestazioni sessuali o roba del genere, ma solo con un po' di affetto, di compagnia, la moglie. Questo abbiamo capito, diciamo dall'inizio, in molti casi lei non è che sia disabile o in questo momento ha bisogno di qualcuno che l'assista. Lei dice mi serve una compagnia, ma questa compagnia deve essere per forza una persona che lei paga e stipendia come collaboratrice domestica, non può essere una persona con cui lei ria un rapporto, un'amica, una nuova persona che entra in casa sua. Questo vorrei capire, perché uno deve pagarsela per avere questa compagnia? È caduto, vabbè, rimarrò con questo dubbio. Nafissa. Sì, buongiorno. Lei ha sentito il signore che ha parlato prima? Sì, ho sentito. Mi domando io, io capisco, è lecito che una persona vedova, relativamente giovane, 68 anni, non si è vecchi, considerati vecchi, ha bisogno di avere qualcuno in casa che sostituisse la moglie. Ma perché deve affittare un essere umano per fare questo e non può cercarsi una relazione? Questo mi domando, vediamo se lei mi aiuta. No, io sono d'accordo con lei, potrebbe trovare una compagna, una persona... magari in pensione come lui, insomma, che possa perché una badante vive insieme, perché una badante non per forza una badante, non per forza una badante, cioè non è che nello stipendio c'è incluso anche che devi anche scaldargli il letto, secondo me. Poi questo assolutamente no, è il mio punto di vista. Esatto. Ascolti, se le posso raccontare la mia piccola storia, anche bellissima, positiva, fra tante storie negative dei badanti che fanno danni, però alcuni sono anche bravissime, anzi tanti sono bravissime. Allora, io ho fatto impiegata per diversi anni presso diverse aziende. Lei di dov'è di origine? Dal Marocco. Marocchina, sì. Però sono qui da tanti anni e ho studiato ragioneria a Verona e a un certo momento ho cominciato a fare impiegata. Finché l'ultima ditta con la quale ho fatto impiegata ha fallito. Durante il fallimento ho incontrato un signore che assisteva sua mamma all'ospedale e io ero per mia madre. Chiacchiere, raccontato che la ditta fallisce e cosa farò, eccetera, insomma scambio di parole, e lui mi ha detto: guarda, io avrei bisogno. Le ho offerto un lavoro. Mi ha offerto un lavoro breve, finché non riprendi la dita, eccetera, eccetera, puoi venire. E sono andata a lavorare da sua mamma e ovviamente facevo tutte le pratiche per il fallimento, per la disoccupazione, quelle robe lì. Poi a un certo momento la mia ditta che aveva fallito ha cambiato ragione sociale, mi ha mandato un telegramma: torna a lavorare subito. Ma nel frattempo noi avevamo già avuto un buonissimo rapporto quasi familiare anche con la sorella che adesso è mia cognata. Che scelta ha fatto? È rimasta a fare la badante o è tornata a fare la ragioniera? Ho scelto immediatamente, quando mi è arrivato il telegramma, di tornare a fare l'impiegata. Vabbè, perfetto, ha fatto la badante, guardi, per un periodo della sua vita. Ho visto le lacrime e mi dice: no, non puoi, non esiste, non posso abbandonarti, tu non mi puoi abbandonare. Ma dico, seguivo tua mamma. Sì, però anche questo, in questo non voglio sembrare... Non fa parte di un contratto di lavoro il fatto del ricatto affettivo. Non può abbandonarla. Se per lei il lavoro finisce, finisce. Non può essere, secondo me, un patto per la vita. Perché non c'è contratto che può stabilire quello. A meno che lo stabilisca un contratto. Paolo, io la penso così. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Chiudo con lei. Sì, buongiorno. Niente, io appunto, avendo una fidanzata badante, so benissimo di cosa si tratta, ecco, volevo solo esprimere... Ma badante sua o badante di qualcun altro? No, badante di qualcun altro, naturalmente. Ecco, quindi ha assistito una signora da 12 anni ormai, che è stata affetta da Alzheimer, quindi lascio a lei immaginare... È un lavoro durissimo. Durissimo per una che ha l'Alzheimer, che è come un bambino, adesso si trova in uno stato quasi vegetativo, ma voglio dire, ecco, un po' di tutti i discorsi che si fanno, come giustamente si è detto, ci sono buone e cattive. Io penso che dovrebbe essere il lavoro della badante dovrebbe essere una cosa più selezionata sotto il punto di vista umanitario, prima di tutto, ecco, perché ci sono appunto bravissime badanti che danno anni. Lo so, ma pensi che risulta difficile farlo con il personale specializzato che sta in istituti, il personale sanitario, il personale paramedico? Si vedono continuamente immagini di istituti con persone che maltrattano i loro ospiti, però abbiamo questa mattina, per quanto possibile, dato uno spaccato del rapporto tra italiani e badanti, e di questo siamo contenti. Alla prossima.